Sì, non è un ripiego ma un rilancio. Nelle settimane scorse ci siamo resi conto che la data del 23 giugno creava una sovrapposizione tra il Pride e un importante progetto europeo promosso da ERTE che portava proprio per quella giornata in città una performance di una compagnia marocchina. È un progetto europeo proprio fondato sugli artisti migranti. Questa contemporaneità, ce ne sono tante nella città di Bologna ovviamente, ma questa in particolare metteva in campo due pratiche, come dire, opposte. Mentre il Pride attraversava con carri e feste, questa compagnia faceva l'invito a una riflessione sull'attraversamento dello spazio pubblico rallentando i movimenti nella T. Allora siamo confrontati con ERT e con tra tutte le associazioni e abbiamo riflettuto sul fatto che pur, come dire, con tutti gli accorgimenti, questa simultaneità avrebbe prodotto una cannibalizzazione del Pride rispetto alla pratica della compagnia migrante, e questa cosa per noi era politicamente inaccettabile, e quindi abbiamo, non senza difficoltà, perché come dire, organizzare è sempre complicato, però con piacere ceduto lo spazio pubblico a questa compagnia per essere anche noi con loro a promuovere questa pratica di diritto alla città, e per poi invece invitare la comunità migrante il 7 luglio a sfilare assieme a noi. Da tempo, insomma, il Pride sta sempre più diventando un collettore di varie istanze in un senso allargato, non solo della comunità omosessuale. Sì, e infatti il claim che abbiamo scelto, Corpi Resistenti, dove R-esistenti, vuole proprio essere un invito a collettivizzare le istanze. Già da molto tempo il Pride riflette sulla comunità migrante, sulla comunità senza fissa dimora, e come dire, allarga la propria riflessione a gruppi della città che non hanno, come dire, pratiche di orgoglio così evidenti e massicce come la nostra, proprio perché l'orgoglio è lo stesso e l'obiettivo è lo stesso. Allargare questi orizzonti vuol dire anche farsi carico di problemi come quello che abbiamo incontrato quest'anno, di una simultaneità, e riflettere nella maniera più positiva possibile, produrre dei rilanci, mai in sottrazione ma sempre in addizione. Devo dire che il Pride è molto orgoglioso di questo slittamento, perché è un rilancio, è la capacità di includere pratiche che vengono prodotte in luoghi, in gruppi molto diversi dal nostro, ma che mirano allo stesso obiettivo. Il progetto di ERTE parla proprio di diritto alla città. Il diritto alla città è stato in tutti i documenti Pride un nodo fondante. Non possiamo non farci carico di quell'istanza ed essere noi stessi megafoni per quell'istanza, senza schiacciarla. Immaginiamo cosa vuol dire in una città che viene attraversata da carri festosi con musica, il tentativo di produrre una pratica completamente diversa. Sarebbero stati l'alternativa divertente, tra virgolette, a una pratica che invece invita a una riflessione. Questo non va bene, non va assolutamente bene per noi invece. Era meglio, come dire, raccogliersi intorno a questo importante esperimento che ERT porta in città e poi rilanciarlo insieme tutte le nostre istanze in una maniera collettiva, perché i corpi sono veramente il punto che ci unisce. I corpi resistenti vuol dire partire dalla propria dimensione del corpo, stabilire resistenza e stabilire la resistenza rispetto a quelli che sono le imposizioni, gli stereotipi, le regole sommerse che la società crea e impone. Torno un attimo sulla questione del diritto alla città, e chiedendoti una riflessione su, appunto, al punto della situazione non solo per ovviamente la comunità LGBTQI, ma anche per altre categorie. È garantito il diritto alla città? Ma noi siamo scesi in piazza quando questo diritto è stato leso, siamo scesi in piazza quando abbiamo visto profilarsi un conflitto sul tema delle occupazioni degli spazi, interpretati solo con la categoria della legalità e mai con quella del diritto alla città. Ma siamo scesi in piazza anche quando si è parlato di DASPO, si è parlato e si parla ancora di DASPO. DASPO come strumento di pulizia dei centri storici, da quello che viene definito il decoro. La nostra comunità ama definirsi una comunità di indecorose, di persone che nella storia sono state indicate e additate come indecorose. Non per niente al caso in questi giorni abbiamo una mostra sui confinati del nazifascismo, e i confinati rappresentavano proprio questo: persone a cui veniva negato il diritto alla città, alla comunità, che venivano perciò mandate altrove, in isole, in periferie, in province, lontano dalle loro relazioni, lontano dai contesti in cui avevano costruito le loro identità. Il diritto alla città non è mai acquisito, è un punto di riflessione dinamico che va continuamente esplorato. Non accontentiamoci di, io in questa città sarebbe, leggo molto spesso queste polemiche, chiaramente residenti, persone, dicono dire del nostro diritto alla città come individui, ma chiediamoci sempre se è un diritto condiviso, che è espresso da tutte le persone allo stesso modo, perché i diritti o sono di tutti o sono privilegi.